ad alta voce. Sandro Lombardi legge Casa d'altri di Silvio D'Arzo. Terza puntata. Si capisce che la vecchia non si fece vedere in parrocchia, né il giorno dopo né gli altri. E io poi non riuscivo a trovare neanche quella mezz'ora di tempo per andar giù al canale da lei. Ma un prete di montagna lo sapete anche voi che cos'è. Certi mesi dell'anno, per esempio novembre, ci vogliono un maniscalco, un dottore, di quelli appena sbarcati però, e poi un postino e un barbiere per mettere insieme sì e no il lavoro che lui fa da solo. E adesso era proprio novembre. Ora, il curioso della storia era questo. Ogni giorno ci pensavo di più e avevo certi pudori e ritegni che non conoscevo da almeno 30 anni e delicatezze da far quasi ridere. Ma provate a usare coltello e forchetta quassù, o parlare italiano decente, o anche solo a dar la destra a una donna. Si rifugian di colpo nel guscio. Tutto quello che potrete ottenere sarà un cenno di testa e nient'altro quando li sfiorate passando col gomito. D'andare più in là non sperateci. E anche me mi guardavano già con sospetto, come guardavano parlare gli inglesi. E in confessione anche peggio. Parlavo e parlavo, e poi ecco, dovevo fermarmi e cominciare a tradurmi. Ma sì, sì, mi dicevo, quando il chierico mi sfilava una scarpa e poi l'altra, e alla fine potevo sedermi. Ma se è ancora più chiaro del sole, la questione del matrimonio e tutte quelle domande da un soldo non gli interessano tanto così. È positivo. È solo un povero diavolo come te, solo un povero prete da sagra e lotteria come te poteva prenderla un momento sul serio. Ma pensaci ancora un minuto, se ancora riesci a pensare. Una donna di 60 anni e anche più, che fa quel che fa lei, che passa la sua giornata al canale a lavar stracci vecchi e budella, e fa 7 chilometri al giorno per andare a portarli giù a valle, e tutti i giorni dell'anno così, che non ha neanche un cane, né un morto, e non saluta nessuno, e nessuno si interessa di lei. Si capisce che avrà pur qualcosa da chiedere, e si capisce anche che venga a chiederlo a te, galantuomo, che sei l'unico in tutto il paese a essere vestito così e stai per giunta a dozzina d'addio. E chiunque altro lo avrebbe capito da un pezzo. Pensa al prete di Braino, figurati. E il giorno dopo magari il contrario. Bene, bene, lasciamo in pace la vecchia talpa oramai, spolveriamoci il cuore e non pensiamoci più. Poi arrivò quella sera. Era buio e c'era già la luna. I monti e le siepi e le strade e le lapidi del cimitero, fatta eccezione dei boschi che non erano nient'altro che macchie, apparivano più chiari che al sole. Non erano ancora 7 e in ogni casa la vecchia prendeva il filo e faceva le parti. Dietro il bersò della vecchia osteria mi sembrò di vedere delle ombre. S'aggiravano attente qua e là in mezzo alle frasche già spoglie. Aspettavano di certo qualcuno, e anche un ladro scoperto in parrocchia avrebbe dato un po' meno sospetto. Poi, dalla parte del valico, qualcheduno fischiò in modo strano. Un'altra ombra arrivò a tutta corsa e sparì tra le frasche anche lei. E così s'acquattarono tutti. Non sono più curioso di un altro, ma m'ero messo altre volte a guardare per meno di questo. Un ladro è un ladro. Due ladri non più che due ladri. Ma sei o sette ombre di notte che si gettano dietro un cespuglio è una storia da dar da pensare. E poi questi in realtà sono difficili tempi. Così spensi la luce e aprii i vetri e m'accostai alla finestra. Passò un minuto e poi un altro. E la luna pareva a guardare anche lei. Nel silenzio si sentiva il rumore dell'acqua e il crepitare di una frasca già morta e tutti quegli infiniti rumori che nessuno sa mai cosa siano e che sembrano venir su a poco dal cuore stesso della notte e dei monti. E passò un terzo, a fatica. Sul sentiero si sentirono a un tratto dei passi. Io mi alzai sulla punta dei piedi e mi affacciai anche un po' alla finestra. Alla svolta del sentiero di monte apparì una capra e una carriola e una vecchia. Di colpo, da dietro il berceau, balzarono fuori sei o sette ragazzi con latte vuote e coperchi e lamiere e tutto quel che è rimasto da una festa del genere e altri tre dalla siepe di fronte, urlando e battendo le latte le si misero in cerchio a ballare e poi tutti dietro in corteo. La capra era come impazzita, dava calci e testate e cornate e voleva strappare la corda e adesso si impuntava lì in mezzo alla strada e adesso dava un gran balzo in avanti. La vecchia invece non pensava più ad altro che a tirare diritto coi suoi stracci, carriola e ogni cosa, senza dire una mezza parola e voltarsi nemmeno una volta, né più nemmeno che il rospo che bada solo a sparire nel fosso. Io non riuscivo a capire. Ascoltavo, guardavo e guardavo, ma non ci riuscivo a capire. Mi erano vicini ormai, li potevo vedere di faccia. Il figliastro del vedovo Sante le lasciò scivolar sulle spalle un bel mucchio di pezzi di carta, coriandoli o roba del genere, e poi si mise a gridare qualcosa. Io tendevo l'orecchio anche più, ma c'erano sempre i coperchi e le latte e non potevo sentir più di tanto. I confetti, gridavano tutti ridendo, evviva la sposa, i confetti. Ed allora ogni cosa fu chiara. Sì, riconosco la firma, mi venne subito in mente. Qui c'è sotto la Melide, è chiaro. Quella sera ha ascoltato alla porta e ha capito ogni cosa a suo modo e così ha preparato la festa. Beh, una sciocchezza del genere non è neanche rara quassù. In fondo hanno ancora del Bosco. Un tale è appena appena diverso da voi, va da solo a tirare il suo sacco e non scende a bere in stalla a Natale ed ecco arriva la sera che gli tagliano la barba alla capra. Non mai più della barba, si intende. Ma io già pensavo a domani. Aspettai che si avvicinassero ancora. «Ehi là, ragazzi!» gridai quando furono sotto di me. Brava gente, un momento, aspettate, aspettate che viene il più bello, adesso arriva anche lo sposo. E feci l'atto di scendere giù. Là da basso ci fu uno scompiglio e un correr matto fra vicoli e siepi e un rotolare di latte qua e là. La compagnia si disperse di colpo. Senza fretta o lentezza, la mia vecchia sparì dietro l'angolo. C'era luce. C'era una luce freschissima e tersa e io potevo vedere ogni cosa. Qua e là, sui capelli e le spalle, aveva ancora quei pezzi di carta. Bastava scuotere appena la testa perché tutti cadessero giù. Bene, neanche questo lei fece. Ma che? Li ignorava. Ecco tutto, come ignorava anche me affacciato lì alla finestra, a guardarla passare e sparire. La più assurda creatura del mondo. «E domani al canale», dissi io quasi allegro. «Occasione migliore, ho paura che non venga mai più. Quella vecchia signora dovrà pur ringraziarmi. Per forza. Anche un negro farebbe così». Dopo un po' non sentii più i suoi passi. Una lanterna s'accese. Laggiù in fondo scorreva il canale. La lanterna si spense. Adesso, sotto la luna, tutto era nitido e placido e fresco, fino in fondo alla valle e più in là. «E domani al canale», pensai. Dicono che occasioni del genere facciano contenti ragazzi e ragazze. E così il giorno dopo mandai via i miei ragazzi mezz'ora prima e un po' più, e me ne andai giù al canale. Era là. Mi fermai lì sull'argine, proprio sopra di lei. 10 metri. Naturalmente m'aveva visto arrivare fin dalla curva, a dir poco. Ma prima di dar segno d'essersi accorta di me, pensò bene di farmi fare un bel po' d'anticamera. La salutai di lassù con un cenno di testa. Lei, dal fondo, mi fece altrettanto. Ma non più che altrettanto, capite? Solo un cenno di testa. Poi riprese a lavare. Era tutto quel che passava al convento e non c'era verso d'ottenere anche un soldo di più. Di modo che non c'era altro da fare che infilare la strada di casa. E così, per 3 o 4 giorni, esattamente così. C'era quasi da ridere. Niente fretta, dicevo. La domenica viene dopo 6 giorni ed è per questo che la chiamano festa. Poi una volta successe qualcosa. Erano già cominciate le piogge. Dappertutto odor d'erba bagnata. Sotto i boschi al mattino si trovavano mucchi di passere morte annegate. L'acqua al canale era intanto cresciuta di un braccio e già molti lastroni di pietra erano quasi coperti e sparivano. Così lei, per chinarsi a lavare, dovette portarsi un 300 metri più giù, verso valle. Lì per lì non riuscivo a vederla ed ero già per tornarmene indietro. Purché anche a lei non venga adesso l'idea di dar del lavoro alla Melide, dissi. Una pietra rotolò dentro l'acqua e io di colpo m'accorsi di lei. Era là, quasi sotto le frasche. Proprio un vero segnale d'intesa, un messaggio con tutte le regole. E neanche adesso saprei chi in coscienza possa dire d'aver mai ricevuto un biglietto che valesse anche un quarto di quello. La mia vecchia m'aveva chiamato, ecco il fatto, e quella volta ebbi tanto buon senso da capire che chiamate del genere sono di quelle che non vogliono risposta. Amici, non bevete mai fino in fondo al bicchiere. Mi fermai neanche mezzo minuto. Era sera. I fossati correvano a valle. Il canale trascinava con sé rami d'albero e ogni tanto anche macchie di fango. Tornai verso casa. Farla breve, le giornate passavano e lei non mostrava per niente di aver voglia di scendere dal ramo. E sempre sarebbe stato così. mi decisi ad andare nella tana. Intanto non facevo che spiare le nuvole e sentire per l'aria se l'odore di radice bagnata cominciasse ad andarsene via, e la melide a spiare i miei gesti. Ormai non riusciva a far altro, e anche un po' di schiarita arrivò. «Bene», mi dissi quel giorno, «perché prima di muovere un passo una ragione devi pure trovarla, e far ridere non piace a nessuno. Se il tuo mestiere è interessarti di tutti, comincia intanto a interessarti di uno, non di più che uno solo. Fino in fondo, però. Fino alla radice, a dir poco. Non c'è mezzo migliore così per interessarsi sul serio anche di tutti quegli altri. Se no, galantuomo, risparmiati pure il sapone. Tutto il resto non è che paesaggio». Non c'era da vantarsene, certo, ma mi par di conoscer parecchi che si sono fermati un bel pezzo più in qua. Ormai aveva smesso di piovere. Le donne avevano rimesso i fornelli davanti allo scalino di casa e i pulcini attraversavano la strada. Me ne entrarono perfino in parrocchia. A metà del mattino venne fuori anche un pezzo di sole. Vecchio ottone, oro falso però, da non potersi fidar più che tanto. Ma ecco il brutto. Dopo 12 giorni di pioggia, era proprio una giornata da gente. Cominciarono verso le 8. Prima di tutto i 6 più vecchi pastori del borgo per via della faccenda del maggio. Niente più Gerusalemme quest'anno e ancor meno l'Orlando a Parigi. Durante la guerra gli spadoni erano stati consegnati ai tedeschi, una corazza mancava e via ancora, e non c'era né soldi né tempo. Bene, volevo suggerire qualche altro lavoro dove non ci volessero cose del genere e fosse oltre a tutto anche corto e ci fossero pochissime parti. Uno di loro era morto a settembre, faceva da Re Carlo, da Giuda e da tutto, ed era il meglio di tutto il versante. Ma il fatto è che era morto a settembre. Loro 6 erano venuti per questo fin dalle torbe ai confini di Bobbia. Lì per lì non riuscii a scovarne nessuno. Pensavo ad altro quel giorno. «Certo che la Gerusalemme era quel che ci voleva per voi», dissi io, solo per prendere tempo. Diedi un'occhiata dai vetri. Il sole era lì per sparire. Nubi blu gli ronzavano attorno. Fecero di sì con la testa. Il sole, ecco, era sparito. E la stanza si fece anche più buia di un cinema. I 6 vecchi aspettavano sempre. E richiamava anche un bel mucchio di gente, dissi io, un po' distratto. Guardavo sempre le nuvole blu. Dopotutto, potevano anche andare oltre, passare. Bastava un fiato di vento e anche meno. I 6 vecchi si guardarono in faccia. Ne venivano fino da valle e anche fino dall'altro versante, disse uno. Tanto più, reverendo, che sono 5 anni che non facciamo più maggi quassù, disse quello che stava alle torbe. E si capisce, la guerra, dissi io, tanto per dire. Forse il sole riusciva a farcela ancora. Bastava un fiato e nient'altro. Allungai il collo per guardare a ponente. Perché non provate i reali di Francia? Anche questo è tutt'altro che male. Ci fu un mezzo consiglio. I 6 vecchi si consultarono un po' a bassa voce e poi uno parlò anche per gli altri. «Sì, ma per via delle sciabole? Ce ne vogliono 5, a dir poco, anche lì. E poi costumi e corazze. E le donne? Ci sono 3 donne in quel maggio e 2 per di più molto giovani. Chi le trova, le giovani, adesso?» Tacevo. Anche quelli tacevano. Si guardarono ancora negli occhi e poi tutti guardarono insieme quello che stava dalle torbe di Bobbio. «Reverendo, vedete, ci vorrebbe un lavoro un po' corto», tornò con pazienza a spiegarmi quello delle torbe di Bobbio, «da lavorarci in 6 o 7 e anche meno. Non abbiamo più spade, ecco il fatto. E poi anche c'è venuto a morire Grisante a settembre». «Dite», dissi io senza starci a pensare, «credete che il tempo stia su?» Tutti quanti guardarono dai vetri. «Si potrebbe fare l'estate di San Martino per questo. Viene sempre una settimana buona a quel tempo». «No, no, io dicevo per oggi. Domandavo se oggi non vien giù un temporale d'autunno». Ora, passati i 70, questi pastori mettono su barbe da santi, fattezze da santi e 2 occhi chiari e celesti come neanche un bambino, sicché quando vi guardano in faccia vi par sempre di essere in colpa. La verità è che han più fiuto di un gatto e non riuscite a nascondere niente. Avevano fiutato qualcosa. Avevano fiutato, di certo. Si rabbolsero il loro mantello e se ne andarono via contrariati. Era la prima volta che mi capitava in 30 anni da quando ero salito qui a monte e la cosa dispiacque anche a me. Dalla finestra li vidi prendere il sentiero dei pascoli. Se ne andavano via tutti in fila, sempre dalla parte del fosso. E prima uno e poi l'altro tirarono fuori di sotto i mantelli i formaggi di capra che avevano portato per me. Salirono ancora un bel po' e poi si riunirono tutti. Ci fu come una congiura. Quello delle torbe di Bobbio fu il primo a rimettersi in via. Tutti quanti gli tennero dietro. Sparirono a mano sinistra. «Quella non è la via della torba», disse la Melide che mi stava vicino. «Per la torba si sale a diritta. Non ritornano a casa quei là». Mi voltai per guardarla. «Quelli scendono a braino», insistei con un certo disprezzo. «Sono capaci di scendere a braino a consigliarsi col prete di là». Anche questo era la prima volta in 30 anni. «Beh, non mi è mai piaciuto il formaggio di capra», la elusi. Mi guardava in maniera curiosa. «Sa di selvatico», dissi. Sandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.